sono nato a San Lorenzo il 2 luglio del 911. Mio padre, vecchio anarchico, era il segretario della Camera del Lavoro di Via della Croce Bianca, dove ha diretto vari scioperi, tra i quali nel 1911 lo sciopero per il raggiungimento delle 8 ore di lavoro. Bandiera Rossa era uno dei tanti gruppi antifascisti che c'era nella nostra città, era speciale perché era composto soprattutto da lavoratori e da comunisti convinti. Avevamo le cellule, alla statistica, alle ferrovie, alle poste, ai telefoni, in tutti i posti governativi avevamo i nostri compagni. Quando il 25 luglio la monarchia ha fatto arrestare Mussolini, abbiamo trasformato le nostre cellule in cellule di combattimento, pronte per combattere contro i tedeschi e contro i fascisti e soprattutto contro il capitalismo, perché il nostro obiettivo era la distruzione del capitalismo e una repubblica di socialisti, di lavoratori, perché tutti avessero il pane, tutti avessero la casa, tutti avessero l'assistenza sanitaria, tutti avessero quello che ogni individuo ha diritto dalla vita. Avevamo l'appoggio incondizionato del popolo. I veri resistenti sono stati coloro che ci hanno appoggiato e non ci hanno denunciato. Per continuare la lotta, l'8 settembre, noi siamo scesi in piazza a combattere. E difatti le nostre cellule, i nostri gruppi di combattimento erano Porta San Paolo, erano la Campanella, insieme ai soldati e ai militari e ad altri popolari che si sono affacciati. Poi siamo entrati in clandestinità. Quando dovevamo trovare immediatamente una squadra a disposizione, andavamo a Torpignattara, che era il centro più organizzato della nostra formazione. I tedeschi e i fascisti non entravano in Torpignattara perché il commissario era stato soggiogato da noi, con la minaccia di noi. Con l'esempio dell'uccisione del fascista Stampacchia, avevano paura della nostra reazione. La cittadinanza si raccomandava a noi per avere il pane. C'era un forno in via Due Allori che ogni tanto veniva preso d'assalto da noi. Prendevamo il pane, lo distribuivamo, portavamo via i bollini in modo che non sapessero quanti bollini e quanta pasta, quanto pane avevano distribuito.